Allora, sono Enrica Merlo di Mi mancano i fondamentali. Come ben sapete da molto tempo e come potete anche vedere dalla mia pagina Spreaker, Gatte, Poesie e Colori, è da parecchio tempo che non mi cimento più né in una diretta né in una registrazione su questa radio. Mi è venuta un'idea. Siccome io questo blog, che vanto avere più di 50.000 visualizzazioni in poco più di un anno, mi è venuta in mente una cosa. Magari alcuni di voi non hanno voglia di leggere o non ne hanno la possibilità, magari sono in tram o in pullman o chissà cosa e non hanno voglia di mettersi lì con il cellulare a leggere, no? E allora ho deciso di creare una stringa Spreaker per ogni mio articolo. Ci proviamo. Questa sera, per esempio, avevo intenzione di cominciare con un articolo che mi è piaciuto molto, è una recensione di un film che mi è piaciuto particolarmente. Si tratta di Goodbye Lenin, visto e piaciuto, piccola recensione. Questo è il titolo del mio articolo. Dopodiché c'è la locandina di questo bellissimo film e comincio. In genere io inserisco sempre il link dell'articolo precedente, ma io questo in radio non lo posso inserire, quindi comincio a leggervi il mio articolo. Ho visto la settimana scorsa un film, questo, indicato dal titolo e dall'immagine sopra, Goodbye Lenin. Inizialmente scettica, devo ammettere, ho pensato un malloppone pseudocomunista, chissà quanti sbadigli. Devo dire che mi sono ricreduta parecchio. Due parole sul film, giusto perché sappiate cosa cercare nel caso la mia recensioncina vi convinca. La regia è di Wolfgang Becker ed è un film del 2003. Il genere è definito per lo più commedia drammatica. Gli attori protagonisti sono quasi tutti tedeschi e sono proprio bravi, io lo devo ammettere, nonostante io non abbia un bel rapporto con i Nibelunghi. Se poi avete voglia di andare a vedere, c'è un mio articolo di qualche tempo fa dove io racconto un episodio molto divertente della mia infanzia che tratta proprio il mio rapporto con il popolo tedesco, ecco. Continuo. La colonna sonora vera e propria chicca, che vi prende da subitissimo e vi fa entrare in immediata sintonia con la storia, è di Ian Tiersen, per capirci quello che ha scritto la colonna sonora pure de Il favoloso mondo di Amélie, e diciamo poco. Bene, il film tratta il tema dell'Ostalgie, termine tedesco inserito quasi immediatamente dopo la caduta del muro di Berlino negli anni 90 dello scorso millennio, nei vocabolari teutonici. Che cos'è sta Ostalgie? Né più né meno il fenomeno che a quanto pare ha preso molti della nostalgia conseguente alla scomparsa della DDR nella Germania orientale. Bel film anche a livello visivo, con un colore tra l'ocra e l'anticato perenne, che dà proprio l'idea di vecchio, obsoleto, passato ma con discrezione. Come già detto, colonna sonora travolgente. La caduta del muro di Berlino è stata una liberazione non solo per i tedeschi e per tutto l'asse comunista dell'Europa dell'Est, si dice così? Boh. Ma lo è stata un po' per tutti. Chi non ha ancora scolpite nella mente le immagini del muro che veniva abbattuto e delle persone che ci salivano su per prenderne delle porzioni, dei festeggiamenti, degli abbracci, dei baci? Bene. Qui c'è un'altra foto di Christiane, una delle protagoniste del film. Dopodiché continuo. Christiane, madre di famiglia, abbandonata dal marito, fuggito all'ovest. Sarà proprio così. Guardate il film, curiosoni. Irreprensibile propugnatrice dei valori della DDR e della giustezza del regime, cade, proprio nei giorni che precedono l'abbattimento del muro, in coma e rimane in tale stato per 8 mesi. Risvegliatasi è in precarie condizioni di salute ed i figli vengono informati del fatto che ogni piccolo trauma potrebbe esserle fatale. Il figlio Alex, allora, inizia una lotta surreale, a tratti divertente ma soprattutto disperatamente tenera, per fare in modo che la madre, bloccata a letto, continui a pensare di vivere nella vecchia DDR. E ci riesce, e come? Con cura. cura ogni minimo particolare fino allo spasimo, dalle vecchie etichette del cibo che serve alla mamma ai telegiornali debitamente taroccati da lui e dal suo grande amico con il quale lavora in una ditta di vendita ed installazione di parabole. Dalle feste di compleanno allucinanti in cui tutti si devono vestire alla vecchia maniera, ai canti del vecchio regime. Ma per quanto possa impegnarsi, il piano di Alex comincia a fare acqua, ovviamente. Qui troviamo invece un'altra bellissima fotografia tratta dal film, dove c'è praticamente la statua di Lenin, parte di statua di Lenin, trasportata in elicottero e Christiane che la sta guardando perché è riuscita a sfuggire alla sorveglianza del figlio, pur non sapendo niente di questo cambiamento. Poi vi ricordo, se vi piace questo articolo, condividetelo su Facebook, mi raccomando, quando riuscite. Continuo. Una liberazione o una disgrazia che Christiane venga a sapere la verità? Beh, questo lo dovrete scoprire guardando il film. Io so solo che sono rimasta incollata alla pellicola per tutto il tempo ed il film è piuttosto lunghetto, mi pare un paio d'ore. L'ho visto con grande tenerezza, sia per la cura estrema con cui questo figlio si è prodigato per salvaguardare la salute della mamma, non sono patetica, poi vedrete e mi darete ragione, sia dal punto di vista, se così si può dire, politico-sociologico. Alla fine sta liberazione, e nessuno mi venga a dire che sono filo o qualcosa perché sto parlando solo per sensazioni, è stata davvero una liberazione o un altro tipo di regime? A voi l'ardua sentenza. Ho trovato questo film molto istruttivo. Quando è caduto il muro, io ero giovanissima e non potevo certo cogliere le implicazioni che questo avvenimento comportava. L'estrema cura e delicatezza del racconto fanno il resto. Non fatevi ingannare dalla primissima parte del film. In buona sostanza si può definire un'esposizione quasi apolitica, estremamente attenta agli stati d'animo più che agli stati. Il resoconto di un periodo storico importantissimo, narrato non con leggerezza, ma con grande sensibilità. Ecco qua, io ho finito il mio articolo intitolato, come vi ho detto, Goodbye Lenin, visto e piaciuto, piccola recensione. Vi ricordo che se lo volete leggere e vedere anche le immagini che sono in esso, dovete andare su Mi mancano i fondamentali su www.mimancanoifondamentali.com, ovvero il mio blog, il mio sito personale dove io scrivo quello che sento in questo periodo molto difficile per il nostro paese e per diverse persone che mi sono vicine, diciamo che scrivo parecchio sul mio blog. Adesso vi saluto. So che questa registrazione sarà pessima, ma non importa. È un esperimento che ho voluto fare. Vediamo come va. Insomma, inserirò la stringa, di questa registrazione all'interno del post nel blog, di modo che possiate non solo leggerlo, ma anche sentirlo dalla mia voce. Arrivederci a tutti, un salutone da Enrica Merlo, sempre con voi, a qualsiasi costo. Salve!